voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Keep your friends close, but your enemies closer. Well, I've been Howard said that America should topple the Ottoman government. Not secretly. Like a great bird in a blue sky over a blue ocean, civilized men fly! Through puffy clouds and beautiful rainbows, with the power and the speed and the will to succeed, money men fly! No need to clomp around through the ash, the rubble, and the mud. No need for face to face, or even worse, to put a perfectly spit shine pair of brand new leather boots on the dirty, dusty ground. Oh, sure, you could mobilize a million troops. Although 1,000 could probably get the job done. But then, people start to ask questions. So when you drop in out of the white clouds in a blue sky, don't worry about them having to see the whites of your blue eyes. Just let that payload fly and wing on home, my son. It's not your way to die. And when the crying starts, you won't have to see their bloodshot eyes turn red. This is your mission, pretend it's television, where the good guys always win. And they're gonna win again, because you're gonna blah, blah, blah, blah, blah. Oh, they can keep talking, let them keep talking. They can talk while the bombs fall all around us for all I care. But when you've had enough of this diplomatic bullshit and your patience is up, well, all right, it's on and they ask for it. You want to give yourself a second to take in the beauty of the sight as you're coming over the mountains between the green earth and the sky, and blah, blah. I due uomini che si innistavano arriparati sotto la tettoia che era stata messa alla firmata, aspettando con santa pazienza l'arrivata della circolare notturna, Macari, senza conoscersi, si scangiarono un sorrisedro, per chi da dintra di un grosso scatolone di cartone, arrovisciato in un angolo, proveniva un ronfugliare a così forte e persistente che manca una sega elettrica. Un povirazzo, un pizzente certamente, che aveva trovato provvisorio riparo al freddo e all'acqua di cielo e che, conortato da quel tanticchia di calore del suo stesso corpo che il cartone tratteneva, aveva deciso che la meglio era inserrare gli occhi, futtiri sinni di Lugunnu sano sano e buonanotte. Finalmente la circolare arrivò, i due uomini acchiannarono, ripartì. Di corsa arrivò uno, ferma, ferma! Il conducente sicuramente lo vitti, ma tirò di longo. Questo era l'incipit della prima indagine di Montalbano, di Andrea Camilleri. She wants to pass over this rack transfer like a burn trash fusion of blood. She needs her seventh year back, watching the last one rest on the surface. Just tell me please, what's the matter with you? The difference between us. Just tell me please, what's the matter with you? And them, them and me and you and me. There's nothing I can tell you when you have no place to go, no place to sleep. And do you know that there's no one in this town that can beat this gun? Don't mess with the ghost. And do you mind that she wants to pass over this wrecked transfer like a burn trash fusion of blood. Seventh year back and watching the last one rest on the surface. And just tell me please, what's the matter with you? The difference between us. And just tell me please, and what's the matter with you? Unattended. L'augurio è che ci sia sempre qualcuno di nuovo all'ascolto di questa trasmissione, quindi io mi rivolgo di tanto in tanto a chi di nuovo è appunto all'ascolto, cercando di spiegargli come mai la voce di chi parla si senta così raramente all'interno di questa trasmissione, ma perché è una trasmissione da ascoltare in quanto atmosfera, in quanto somma di musica, di incipit letterari, di sprazzi cinematografici e anche di questa voce che compare a volte. A volte sì, a volte no. C'è poi la possibilità a posteriori di riascoltare il tutto grazie al podcasting e di interpretare il tutto grazie alle playlist, cioè l'elenco di quanto viene mandato in onda a costituire l'intera eclettica. Vi ricordo che per avere queste playlist potete recuperarle o da myspace.com/eclettica oppure richiederle direttamente nella vostra casella di posta iscrivendovi alla lista nera di Eclettica. L'indirizzo è giulio@radiorockfm.com. Chicago. And you're sitting high up in the Sierra Mountains, and you're drinking, what's he drinking? Chicago? Champagne. Champagne cocktails. And you're passing judgment on how I run my family. Verso la metà d'aprile del 1941, il professore di cultura militare del ginnasio liceo Empedocle di Giurgenti, avvocato Francesco Mormino, principiò, previa autorizzazione del signor preside, si intende, a firiare classi per spiegare a noi alunni, io allora andavo in prima liceo, il como e il perché della grande adunata giovanil fascista che si sarebbe svolta a Caltanissetta il 21 di quello stesso mese. E correva voce che a quella dunata avrebbero partecipato Macari e avanguardisti e giovani italiane di tutte le altre province siciliane. Nella nostra classe il professore avvocato Mormino si presentò a mezza mattinata, interrompendo una terribile interrogazione di Greco, e perciò fu ricevuto dalla classe in piedi, venne salutato romanamente e ricevette uno spontaneo applauso liberatorio. Questo era l'incipit di Privo di titolo di Andrea Camilleri. Get up I'm a jerk. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 30, volume numero 4. Indice. Big Sur, assieme a Money Mark, Dave Fischoff, Forget Cassettes, Auschka, Marsilo Agro e il duo Maraviglia, The Low Lows, Ted Leo and the Pharmacists, The Go Find, Dilith, Maps, Holly Throsby, The Besnar Lakes, i film The Godfather, The Godfather Part 2, Gli Incipit, La Pazienza del Ragno, La Presa di Macallè, La Prima Indagine di Montalbano, privo di titolo, tutti e quattro di Andrea Camilleri.